In collegamento telefonico con Fulvia Orifici dell'associazione MACMA per parlare del progetto Sette Ponti Walkabout di vari autori, un documentario interattivo da oggi fruibile online. Fulvia, ben trovata. Ciao. Allora, lo descriviamo? Sette Ponti Walkabout è anzitutto un web doc di Gianfranco Bonavies, Giampaolo Capobianco, Michele San Marco con la collaborazione di Valeria Tisato. Sono quattro artisti che abbiamo selezionato attraverso un progetto di residenza per giovani under 35, omonimo, intitolato come il web doc Sette Ponti Walkabout, che abbiamo realizzato con il sostegno di SIAE Illumina, Coppia Privata per i Giovani per la Cultura e NIBACT. È un progetto che ha riunito diversi partner toscani e non, perché è un progetto che si è svolto in Toscana, nel Val d'Arno Superiore, sulla strada Sette Ponti, che è un antico itinerario che collega Arezzo e Firenze. I partner del progetto sono stati la Fondazione Sistema Toscana, la Scuola di Comics Design e Berta Film Distribuzione cinemaitaliano.info e una serie di collaborazioni tra le quali ci sono chiaramente i comuni lungo i quali corre la strada Sette Ponti, che sono il comune di Terranuova Bracciolini e il comune di Loro Ciuffenna, la società Alcedo Ambiente e Territorio, che è una società che gestisce alcuni parchi e riserve naturali del territorio, l'AGT, che è un laboratorio, diciamo, di storytelling focalizzato sull'interattività, e l'archivio dei diari nazionali di Pieve Santo Stefano. Sì. Questa è un po' la squadra che c'è dietro, senza contare poi anche i docenti, perché come tutte le residenze d'artista, il progetto prevedeva una parte, diciamo, dedicata alla formazione e una parte, quella principale, preponderante, dedicata alla realizzazione del web doc. Tra i docenti che hanno, diciamo, svolto tutoraggio per la realizzazione del lavoro, ricordo Michelangelo Frammartino, Benny Atria, Roberto Malfagia, Francesco Frongia, Fausto Baroncini, Giuseppe D'Amato. Quindi una ricca squadra anche tra i docenti. Oggi il web doc è online. Abbiamo fatto una prima presentazione al Taormina Film Festival, che è stata qualche giorno fa. Siamo ancora al Taormina Film Festival con una piccola postazione nel foyer. E per tutta l'Italia il web doc è fruibile da questi giorni e auguriamo, insomma, che più persone possibile possano scoprire non solo le storie della Sette Ponti, le ricchezze che custodisce la Sette Ponti, che è una strada, un antico itinerario di origine etrusca, che coincideva per alcuni tratti con l'antica Cassia, ricca di pievine romaniche, di storie, di guerre, che riscopre anche il mondo contadino, che è, diciamo, una delle caratteristiche principali di questo territorio, prevalenza rurale, ma che promuova anche quelle che sono le realtà di oggi, i giovani di oggi, che stanno appunto costruendo lungo la strada Sette Ponti nuovi orizzonti, mescolando radice e innovazione. Per cui abbiamo aziende agricole di ragazzi di 30 anni che coltivano, hanno delle colture, diciamo, che valorizzano quelli che sono i prodotti tipici del territorio, insomma. E più in generale, poi Sette Ponti è anche un web doc che ci permette anche un po' di entrare in contatto non solo con un territorio specifico, ma con quelle che sono le storie e le radici d'Italia in qualche modo. Il web doc, che è strutturato in tre capitoli, si parla di guerra, si parla di mondo contadino, si parla di futuro. Quindi due argomenti, insomma, che appartengono un po' a tutti noi. mescola anche più linguaggi. Sì, assolutamente. Infatti i linguaggi che diciamo erano un po' la caratteristica della residenza e che poi sono entrati a far parte del web doc sono l'animazione e l'illustrazione, il documentario e il filmmaking, il sound design e poi c'è il coding. Il coding che appunto è la parte che caratterizza, diciamo, questo lavoro come un'opera interattiva e che viaggia sul web. Infatti, rispetto ai documentari tradizionali, Sette Ponti Walkabout è un documentario che si fruisce online tramite il web, accedendo al link di navigazione dal proprio PC. L'altra caratteristica importante è che è un documentario la cui storia la può costruire ciascuno di noi, perché date le sue caratteristiche interattive non ha un'unica storia, ma ogni utente che si trova a navigare su Sette Ponti costruisce il proprio filo narrativo. E questa è un'altra delle grandi caratteristiche del lavoro. Ecco, diciamo che, come vi dicevi prima, ha una durata base intorno ai 70 minuti, ma poi dipende tutto dall'interazione. Assolutamente sì, è un documentario che può essere attraversato anche in 10 minuti. È un po' come una strada, puoi andare con la Spider a 200 all'ora, oppure in bicicletta, oppure passeggi tranquillamente, ti guardi intorno, allora scopri prima una storia, poi ritorni indietro, poi fai un altro giro e così. Sì. Allora, da oggi fruibile online, ci lasci tutti i riferimenti? Assolutamente sì, settepontiwalkabout.it e poi diciamo per maggiori informazioni potete contattare la produzione che è Macma attraverso il sito macma.it e i nostri canali social, sempre Macma. Ricordiamo allora il documentario interattivo Sette Ponti Walkabout, fruibile da oggi online. Un saluto e un ringraziamento a Fulvia Orifici dell'associazione MACMA che ha curato la produzione e l'ideazione del progetto di residenza. Fulvia, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie.